Civiltà. L'artigianato. A. Ascolta il testo. L'Italia possiede in campo artigianale una grande tradizione che deriva da antiche espressioni artistiche popolari tramandate nei secoli. Le aziende artigiane sono sparse per tutto il paese e sono specializzate nella lavorazione del ferro, del legno, del vetro, della ceramica e di altre materie.